Qui sono le 8 e qualche secondo. Pane, burro, rock and roll, la tua colazione. Seconda ora. Pane, burro e rock and roll. Come va? Gna fai o gna fai? La tua colazione rock. Saluti a Yuri da Firenze. A Peo. Ogni giorno alla. Che è il gruppo d'ascolto tassisti. Rock FM. Strombazzata per Erina, che mi ha un esame di informatica. Eccola là, bella precisa. Abbiamo dato la notizia, cioè la ricorrenza della nascita di Topo Gigio stamane. Abbiamo ricordato nell'almanacco della prima ora. Fanno sapere che è un falso, un millantatore, una spia, un'eminenza grigia dietro alla quale si celano molti terribili segreti. E io segnalo allora. Max da Milano. E ancora, vediamo un po', il gruppo d'ascolto Galleria Intermittenza, capitanato da Paolo. Un mister trombetta per Trilli che ricambia con la sua polvere di stelle. Trilli Campanello. Abbiamo iscritti per diventare musicisti rock con la bocca, bravi! 335-100-7777. Anche quest'oggi la seconda ora di Pane, Burro, Rock and Roll inizia con la buona musica di Easy Rider. Quest'oggi Mox Cristodoro ci consiglia un Kula Shaker del 99, questo è Sound of Drum. È il cosiddetto brano da sciacquarsi la bocca col quale iniziamo sempre la seconda ora di Pane, Burro, Rock and Roll. Le sonorità di Easy Rider poi le ritroverete da mezzogiorno alle 2 qui su Rock FM. I hear the sound of drums. Sound of Drum, per l'appunto il suono della batteria. Kula Shaker nel 1999 ci suonavano così, grazie a Mox, grazie a Easy Rider per il primo brano della seconda ora di quest'oggi, puntata 180. Buona giornata dall'Ariele, dalla squadra di Pane, Burro e Rock and Roll, composta da Spadino e da Frick, che ogni tanto si allontana dagli studi di Pane, Burro e Rock and Roll per, diciamo la verità, per arrotondare un po'. Ragazzi, il precariato, niente, le sue vittime anche tra le rockstar italiane. Collegamento con la metropolitana. Buongiorno a tutto questo bel pubblico di lavoratori. Salve a tutti. Sì, vi auguro una buona giornata. Capisco che così di prima mattina non siate forse così ben disposti. Ecco, io mi presento, Roberto Fricantoni, cantante degli Schiantos, gruppo che forse voi no, non conoscete. Beh, fa nulla, insomma, poeta, fine dicitore, paroliere, e vorrei quest'oggi declamarvi i versi del grande Fosco Maraini, che magari, insomma, se vi piacciono, raccatto anche qualcosa, insomma, non è un peccato se volete dare un obolo, un'offerta, vecchio. È vero. Intorno convoltigiano le sguince allichere di giorcadi pornali, nel sole si marmellano budrince, al neon s'affastigiano vetrali. Ehi, Frick, ce l'ho io la poesia per te! Dimmi, dimmi, caro amico. Interessante, è un po' ermetica, molto sintetica. Poesia sonora, grazie, la conosco, grazie. E me, che c'è? Thank you. appello per il rettore della IULM, Libera Università di Lingue e Comunicazione. Ce l'abbiamo una pergamena nuova da intestare a Roberto Fricantoni? Capitasse? Le conviene, altrimenti riceverà l'apposito plico, lei sa con cosa. Con la testa di cavallo dentro. L'abbiamo data a Mike Buongiorno, che ha insegnato l'italiano agli italiani, perché non ha freak, che disimpara l'italiano agli italiani, perché pane, burro, rock and roll non ci sta. Allegria, non ci sta. Il bentornato al nostro esperto di ligure estremo, il dottor Bonci, nello specifico da finale ligure. Ti ricordi l'allenamento? Buongiorno Bonci. Buongiorno, buongiorno. Ci stiamo allenando. Dobbiamo proseguire con l'allenamento perché siamo ancora lontani. Ci proviamo. Vabbè, io mi tufferei a bomba sulla lezione di ligure di quest'oggi, se la sente. Come volete. Sì, noi attaccheremo. Cosa abbiamo preparato per oggi? Lezione di oggi preparato. Allora, possiamo cominciare da i nomi delle cinque dita della mano. Mignolo, medio, adulare, indice, pollice. Esatto, sono uguali per la mano destra e la sinistra. Sì. E sono, partendo in ordine rigoroso dal più piccolo. Ah, perché avete mignolo, un modo di dire per le dita. Noi abbiamo un modo di dirle a seconda della funzione che svolgo, o della grandezza della funzione che svolgo. No, molto interessante. Posso credere. Esattamente. Molto una avanti. Piccola cosa, il nome del dito è sempre preceduto dalla parola diu, che non è una bestemmia, è semplicemente la traduzione di dito. Dito. Esatto. Diu. Lo dico per evitare. Ha fatto benissimo, dottor Bonci. Ha fatto benissimo. Sgombrare il campo da equivoci. Esatto. Esattamente. E allora le cinque dita in ligure. Partendo dal mignolo, sì. I nomi sono questi. Diu Marmellu. Diu Marmellu. Esatto. Marmellu cosa sarebbe? Marmellu vuol dire qualcosa di molto piccolo. È il piccinin. Diu Marmellu. Esatto. Marmello. Diu Spusellu. Spusellu. Perché c'è l'anulare. Spusellu. Vagamente. Lungo despo. Perché? È più lungo. Effettivamente è il più lungo di tutti. Lungo despo vuol dire lungo, più lungo di tutti. Sì, lungo vuol dire despo. Lungo di spade, come le spade, insomma, qualcosa del genere. Lungo despo. Esatto. Sacca pigoggi, che sarebbe l'indice, perché anticamente aveva funzione, veniva usato per schiacciare i pidocchi in testa alla gente. Sacca pidocci. Sacca pigoggi. Sacca pigoggi. Perfetto. Però perdonami, per togliere il pidocchio devi usare anche il pollice. E infatti quello si chiama caccialimmo, perché dopo che l'hai presi con il pollice li lanci via e li butti a mare. Vedo? Io non ci sto credendo. Se l'hai inventato è vero. No, parola d'onore, se chiamate un altro che sa un po' il dialetto delle mie. No, allora, ma noi abbiamo la massima fiducia. Le prime tre c'ero, l'indice l'abbiamo fatto diventare? Sciacca pigoggi. E caccia l'immo. Quindi schiaccia pidocchi e caccia via. Esatto. Ma i primi due, cioè il mignolo e l'anulare, lo scusarello, assomigliano vagamente a espressioni sarde. Sì, qui c'è una grossa discussione se siamo stati noi a portare questo dialetto con le U finali a loro o loro a noi. Io parteggio per la prima perché marinaio, mi porta più onore. Ho capito. Dottor Bonci è stato preciso e fondamentale come sempre. Alla prossima, noi continueremo ad allenarci. Ad allenarvi. Sacca pigoggi. Sacca pigoggi. Alla prossima. Arrivederci e grazie. Grazie a lei. Sure, you gave it all, but I want more. With or Without You, 8 e 20 minuti primi. Questa è Pane, Burro e Rock and Roll. Nella gloriosa sfida Davide contro Golia giochiamo sporco, nel vano tentativo di battere tutti gli altri. Nella gara degli ascolti noi caliamo l'asso che si chiama Rosy. Ciao Rosy, bentornata. Ciao a tutti. Per gli amici, quelli della primissima ora, quelli che hanno scoperto Pane, Burro e Rock and Roll da oggi tipo, cosa fa Rosy? No, se vuoi lo dico io, Va benissimo. Allora lo dico io. Rosy ci fa giocare sporco, nel senso che fa vedere gli uomini nudi alla radio, che uno dirà impossibile, e invece noi è 180 puntate che lo facciamo. Le radioascoltatrici di solito apprezzano, e a volte anche i radioascoltatori di quella parte là, che noi ci vogliamo bene lo stesso. Sì. O anche compagni del liceo. Okay? O anche compagni del liceo. In fuori onda con Rosy eravamo in uno speciale medaglia, post cena con i compagni del liceo. Mannaggia Rosy, non devi prenderla male. È bello. Ripeto, anche a me fanno quelle domande lì, ma fai sempre quel lavoro lì? Sì. Per me è sempre un po' imbarazzante, perché visto che nel Varesotto che conta Rock FM tra l'altro non si prende, mi dicono sempre, ma fai quel lavoro là che parli alla radio. Ma dai, dimmi che ti ascolto. No, qua non si può sentire. E mi guardano sempre quello sguardo, come dire, ma davvero parli alla radio? No, poi mi fanno, ci sono novità interessanti. E io, no, mi sono rifiutata di dire della radio. Medaglia. Dovevi diglielo, no? Faccio l'inviata per Pane, Burro e Rock and Roll, faccio vedere i maschi nudi. C'è una svolta nella tua vita. Va bene, comunque secondo me questo speciale medaglia cene coi compagni del liceo potrebbe avere i suoi frutti, Rosy, ci hai regalato un'idea per le prossime puntate. Vedremo, ma occupiamoci dei maschi nudi di Rosy. Su chi andiamo oggi? Allora, oggi parleremo di Ben Cohen, che è un giocatore di rugby inglese. Ti sento interessata. Molto, perché poi siamo nel periodo del Sei Nazioni, questa settimana siamo fermi. Stai parlando di sport? Sto parlando di sport. Sì. Perché sai che io e Fricantoni siamo della religione che... Di rugby, quella rugby. Cosa che si gioca sul campo erboso, sì, con una palla ovale. Se volete controllare, Paolini fa delle lezioni di rugby sul sito. Molto belle. La 7. Ah, sul sito della 7. Sì, la sì. 7.it. Semplicemente. Poi ci ho già detto che c'è la concorrenza che sabato ha lo speciale nel pomeriggio. Davvero? Con un ex giocatore. Allora facciamolo anche noi, non puoi spacciarti come ex giocatrice. No, perché io capelli ce l'ho e troncone pelato. Ah. Non so chi sia, è bravo, lo fa sì, bene. Era il capitano fino all'anno scorso. Ah beh, no, allora scusa. Non mi permetterei. E su che altra radio lo fanno, perdonami? 101. Ah, 101. Mitici R101. La radio ufficiale del torneo di rugby. Cioè, ah beh, ho capito. Ieri erano tutti col cappellino allo stadio, su 101, facciamolo anche noi. Rosy, adesso... non è che... ti porto le magliette della radio alla squadra per cui tifo. Potremmo fare, comunque no, sei assunta subito, la prossima partita del Sei Nazioni ce la commenti tu. No, cioè vabbè, un commentino così. Andata... Va bene. Per esempio, ieri com'è andata? Ieri abbiamo giocato abbastanza, hanno giocato abbastanza. No, abbiamo partecipazione, vai. Abbiamo giocato abbastanza bene. Sì. Avevamo dei problemi perché comunque abbiamo cambiato l'allenatore subito dopo il campionato del mondo che c'è stato a settembre. Ha cambiato un po' di giocatori, però ci credono. Ci credono molto. Quante loro. Ce ne hanno date, scusa adesso? No, è finita abbastanza bene, 23-19 con una meta praticamente all'ultimo minuto. Secondo me l'arbitro ha... Cioè, come al solito, noi siamo gli ultimi del carro e un pochino ci guardano con diffidenza, quindi se c'è qualche intervento dubbio ci danno il torto. Che si sappia, Pane, Burro e Rock and Roll si occupa di rugby perché la nicchia vincerà, e il rugby è uno sport di nicchia. Estremamente di nicchia. Estremamente, no, mi e piace. E si può bere birra guardando le partite. Dai! No, tranquillamente. Allora sposate la causa del rugby. Va bene. Va benissimo. Facciamo anche i cappellini per la prossima partita. Va bene. No, questo non è vero. Rosy, ci siamo giocati tutto lo spazio a nostra disposizione, ma diamogliene un'occhiatina a sto bel ragazzo qua. Allora, mese di febbraio. Il Ben è appoggiato. Ben. Sì. No, io lo conosco intimamente. Certo. È appoggiato allo stipite di una porta di legno levigato a mano. Mm. Torso nudo. Ovviamente essendo un rugbista. Ha i peli, però questo non è depilato, non è uno di quelli che fa il calendario peliato. Okay. Ha dei pettorali normali, in quanto non è fisicatissimo, però lui gioca all'ala, quindi deve essere veloce, deve correre, non è uno di quelli che sta davanti belli cicciotti. Ok. Un filo di barba, perché anche la barba conta. Ha suo fascino, certo. Ha suo fascino, con questo sorrisino un po' magliardo, un po'... Se ti piglio ti sfascio. Ecco, assomiglia all'attore di Lost, al medico di Lost, come tipologia. Ok. Direi che è molto interessante, anche se si vede solo dalla vita in su. Ci siamo capiti, Rosy, sembra un buon partito. Ripetiamo il nome: Ben Cohen. Ben Cohen, come i fratelli Cohen, sì, ma è un giocatore di rugby. Rosy, allora ci sentiamo per il prossimo intervento sul rugby, assolutamente va fatto. Ok, per Galles Italia, sono qua. Ciao cara. Ciao. Appello ai compagni del liceo di Rosy, cioè fa l'inviata speciale di Pane, Burro, Rock and Roll. Se per voi questa non è una novità, poi peggio per voi. Che orgoglio. Tra pochissimo, test attitudinale. Sarete dei rocker oppure no? Scoprillo. Avevamo deciso di prendere il vizio, mio caro Frick Antoni, all'interno del test attitudinale, di occuparci anche delle grandi copertine che hanno fatto la storia del rock. Sì, perché anche le copertine sono state fondamentali nell'immaginario rock. Ci trasferiamo nel 1970, quarto album di... si chiamava Deep Purple, profondo, dice qualcosa? Sì, profondo rosso potremmo tradurre. Il primo in studio in cui appaiono Ian Gillan e Roger Glover insieme, è considerato una pietra miliare del genere rock, uno tra i dischi fondamentali che influenzerà tutto il suono rock e metal di almeno due decenni successivi, ponendo a tutti gli effetti le basi per la fondazione dell'heavy metal. Tra le tracce indimenticabili di questo capolavoro ricordiamo Speed King, Bloodsucker, Child in Time. Ma oltre alla musica, in rock viene spesso e volentieri ricordato per la copertina dell'album. Voi ve la ricordate? Sweet Child in Time. No, parliamo della copertina, maestro. Ah, sì, non si perda copertina. Con la canzone. Ipotesi Veniamo. A. All'ipotesi A, i Deep Purple sono fotografati mentre attraversano la strada di fronte al loro mitico studio di registrazione. Cosa c'è in copertina di In Rock? Ipotesi B, i Deep Purple vengono ritratti come statue greche scolpite però nella grezza roccia. Oppure, infine, ipotesi C, le facce dei Deep Purple sono scolpite nella celebre Rushmore Mountain, la montagna dove furono scolpite le facce di quattro presidenti americani. Quale di queste tre soluzioni è quella esatta? La risposta esatta ve la diamo tra poco, la soluzione giusta poco dopo.